Le foto che ti prendo di sorpresa quando non ti metti in posa sono sempre le migliori perché colgono la verità così com'è e tu lo sai, nonostante tutti i guai, è la strada più diretta verso il cuore delle cose. Che sempre un cuore che batte, come un tamburo che annuncia la vittoria, la tua gloria in un millesimo di secondo, fermo immagine del mondo e tu regina, ti chiami a grandi imprese, i pazzi come me. E quando io ti guardo mentre passi, fai vibrare pure i sassi, col tuo semplice procedere così sicura di te. Mi fai sentire un poeta, anzi di più un profeta, che annuncia al mondo l'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. Stiamo pensando la stessa cosa io e te nello stesso l'inizio momento. L'inizio di una nuova era. Lo senti? Lo sento! Mai quanto sei bella, acqua fresca, sale e terra, e quei segni di batoste che il tempo ha scritto su di te, sulla tua pelle, il riflesso di migrazioni, di bellissime ribellioni, di problemi e soluzioni. La deriva dei continenti ci avvicina, con un salto siamo in Cina, verso i tropici e poi qui. Comunicare non basta, con te mi sento una cosa sola, due sillabe della stessa parola. E quando io ti guardo mentre passi, fai tremare tutti i bassi, col tuo modo di procedere verso il futuro di te. Mi fai sentire un poeta, anzi di più un profeta, che annuncia al mondo l'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. Stiamo pensando alla stessa cosa io e te nello stesso l'inizio momento. Di una nuova era. Lo senti? Lo sento! Guardo mentre balli, vedo in cielo i pappagalli che compongono nell'aria mia perfette geometrie. Mi fai pensare alla luna, solitarissima luna. Lo senti? Lo sento! L'inizio di una nuova era. Lo senti? Lo sento! L'inizio di una nuova era.